Allora, vi spengiamo momentaneamente. Grazie. Allora, ringrazio tutti naturalmente per questi interventi. E se c'è qualcuno, so che Antonio voleva prendere la parola, comunque ecco, chiunque adesso voglia prendere la parola per discutere o per chiedere insomma delle cose, può mettere in lista. Passa a te il microfono, vieni qui. Ti passo il microfono.